pure una domanda, c'è una domanda? Sì, no, sì, io non ho capito all'inizio, non ho ben chiaro, lui che cosa ha fatto per guarire dalle fratture? Dunque, lui ha lavorato, poi lo spiega bene nella seconda parte del testo, per attivare il lobo frontale, che è il nostro centro di, guarda caso, di coscienza e volontà, cioè il direttore d'orchestra, per tenere fuori dalla porta tutti i pensieri distruttivi, i pensieri che interferiscono con la guarigione, e invece suonare la sinfonia che era necessario suonare in quel momento, quella della guarigione, che vuol dire immettere immagini della colonna vertebrale risanata e provare già le sensazioni dello star bene. Guarda caso, è quello che dice Greg Braden quando parla del segreto di Isaia, insomma, che oggi è una cosa abbastanza mai conosciuta. Cioè, che cos'è che genera un miracolo nella propria vita? Cos'è che produce il cambiamento? È immaginare in modo molto dettagliato il nostro futuro, provando già adesso le sensazioni che avremo quando avremo realizzato quella cosa. Cioè, noi siamo in grado di generare un nuovo sé, come? Immaginando come potremo essere, naturalmente devono essere cose possibili, non che voliamo su un altro pianeta o che decolliamo da terra, ecco. Devono essere cose alla portata, ma devono essere dettagliate e bisogna saperlo fare in modo tale che la nostra mente produca le sostanze chimiche conseguenti a quei pensieri che ci fanno per sperimentare l'emozione che avremmo se avessimo già ottenuto quella cosa. Adesso poi parlerò a fondo di come i pensieri, e questo è uno dei temi fondamentali di questo testo, di come i pensieri non siano qualcosa di solo immateriali. I pensieri pesano, hanno materia, cioè i pensieri sono fondamentalmente chimica, prima elettrica, ma poi chimica. E chimica non solo nel cervello, ma in tutto il corpo. Il che vuol dire che se io ho una fede negativa, sviluppo un pensiero negativo, questo è prima un circuito elettrico, poi è un circuito chimico, poi ci sono delle sostanze che vanno nel corpo, le cosiddette sostanze informazionali, o sono ormoni, sono peptidi, neuropeptidi, i quali vanno a, come sostanze a incidere sulle cellule e modificano le cellule, nel senso che sono, le cellule hanno dei recettori per queste sostanze, questi recettori accendono il comportamento della cellula e producono determinate proteine o producono delle altre, alla fine quindi che cosa abbiamo? Abbiamo un pensiero, abbiamo una cascata di neuropeptidi, abbiamo le cellule che reagiscono in un certo modo e alla fine che cosa succede? Abbiamo una certa sensazione, ok? Quindi pensiero, chimica, sensazione. Questo è solo il primo pezzo però, poi c'è un secondo pezzo. Il cervello in realtà monitora in continuazione lo stato del corpo, per ovvie ragioni di sopravvivenza, perché non abbiamo a correre pericoli. No? Quindi, e che cosa succede? Che quando noi, attraverso i pensieri, attraverso questa cascata che ho detto prima, produciamo una sensazione negativa, poi il cervello la recepisce e la interpreta. La interpreta come? Attraverso dei pensieri. E di solito, se non è molto allenato, lo interpreta con pensieri dello stesso tipo di quelli che hanno generato la sensazione. E questo in informatica si chiama loop, cioè tanto più. Quindi inizia a praticare un'immagine negativa, questo mi produce un pensiero, un'immagine negativa, questo mi produce una sensazione negativa. Poi, magari mi alzo al mattino, ho una sensazione negativa, e che cosa succede? Che il cervello interpreta con immagini e pensieri questa sensazione alimentando la stessa chimica. E qui, questo è veramente molto interessante, qui c'è una spiegazione in termini di neurofisiologia del corpo di dolore di Tolle. Tolle parla proprio del corpo di dolore, li ricordi, no? E dice, quando una persona ha sviluppato un corpo di dolore, il corpo di dolore fa di tutto per rimanere. Anche se tu cerchi di fare di cambiare vita, di poter, tant'è ti ritrovi sempre immerso nella stessa poltiglia. E qui te lo spiega bene e dice, questo perché è un fenomeno di dipendenza chimica, cioè se attraverso la fede negativa ho sviluppato determinate sostanze chimiche e ormoni e cose e neuropeptidi che circolano e che sviluppano un determinato modo di reagire delle cellule, e da lì nasce una sensazione. e poi interpreto la sensazione in base ai pensieri e così via, praticamente io nel mio corpo ho un determinato cocktail chimico. Sì. Come se prendessi l'eroina, come se prendessi una sostanza da cui certo. poi io dipendo. E cosa succede? Quando io anche non penso a nulla, attraverso le sensazioni, il mio corpo riproduce proprio quei pensieri. E io ho bisogno di quei pensieri perché, così come se prendo dell'eroina, poi ho bisogno di riprenderla, lo stesso, se ho praticato molto la fede negativa, automaticamente il cervello, corpo, cervello, va alla ricerca proprio di quelle condizioni della vita che mi riproducano quella sostanza da cui io dipendo. E capite bene che quindi il concetto di dipendenza non è più solo una dipendenza psicologica, una dipendenza affettiva, una dipendenza, quella che volete, ma diventa una dipendenza vera e propria chimica. E lo stesso meccanismo avviene, della dipendenza da una droga, avviene per i fatti, semplicemente che sono partiti da problematiche psicologiche, una problematica affettiva produce la stessa dipendenza di una sostanza chimica. E questo credo sia un concetto fondamentale. Una volta che si è instaurata la dipendenza, quella va avanti da sola e si rinforza continuamente, perché noi siamo abituati a dare un peso alle nostre sensazioni corporee e a volerle interpretare. E allora, attraverso un meccanismo di causa-effetto, diciamo, io sento questo perché l'altro ha fatto questo, io sento questo perché quest'altro ha fatto così. Allora, ma anche, questa può essere anche una ragione per cui le persone hanno spessissimo la convinzione di non poter cambiare? Assolutamente sì, perché in effetti se non sai come non ce la fai a cambiare. Perché comunque... No. Gli sforzi che vengono fatti... Il pensiero attiva quella sensazione, certo. Da quella sensazione certo. Ritorna quel pensiero... Assolutamente. E poi c'è appunto questo fatto. Noi siamo abituati a attribuire alle sensazioni delle cause, anche a livello... accidenti, però stamattina mi sono alzato depresso. Da cosa dipenderà? Lei mi ha detto questo ieri, lui mi ha detto quella, forse sul lavoro... Allora, in parte può essere vero, è chiaro, ma molte altre volte si tratta semplicemente di un'abitudine chimica che si è mantenuta ormai iscritta nel corpo, per cui la causa della mia depressione è la depressione stessa. Capite bene che un conto è essere depressi perché ho perso un sogno e allora... Poi dovrò avere il lutto, sviluppare, insomma, e quindi psicologicamente mi posso aiutare con varie cose. Un conto è essere depressi perché la mia chimica è quella. E a questi punti, quando io vado a cercare le cause, ma ne trovo quante ne voglio. E le cause che trovo però non hanno niente a che fare con la realtà, perché la realtà a questi punti è chimica. È come uno che ha bevuto troppo alcol, è inutile che si chieda ma quali cose nella sua vita gli hanno creato quello. L'ha creato la bottiglia, cioè quello che ha bevuto. Ecco. Questa cosa è molto importante e ci fa capire perché molte persone hanno difficoltà enorme a uscire anche problemi minimi, come potrebbe essere smettere di mangiare certi cibi. Perché quel cibo che ha mangiato quella volta gli genera una dipendenza che non è solo psicologica, è chimica. E quindi poi la persona, sentendosi male se non mangia quel cibo, dopo si dà tutte le giustificazioni, mi sento male perché il mio carattere, perché mia mamma, perché questo, per quell'altro. E quindi, come dire, il direttore d'orchestra sul podio non c'è proprio più. In mano, la mano è tutta a degli orchestrali che hanno ciascuno la sua partitura. Quindi abbiamo l'anarchia più totale. Ecco perché l'essere umano si sente in balia di forze che lo controllano. Perché è veramente così. È vero. Ecco, quindi una persona, quando si sente così, sente più giusto. È impotente, perché non sa governare quelle forze. Allora, il problema è, come posso riprendere il governo della mia persona? E questo è il tema di questo libro.